Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Settimana scorsa, mentre la costa orientale degli USA sperimentava un'ondata di gelo straordinario, sull'Australia occidentale si abbatteva un'ondata di caldo da record. Come abbiamo spiegato nella prima puntata, le città sono affette da un fenomeno chiamato isola di calore, che porta all'innalzamento della temperatura in città rispetto al territorio circostante. Ciò è dovuto ai veicoli, a motore, ai condizionatori, ma soprattutto al fatto che cemento, asfalto ed edifici elevati formano un mix capace di assorbire quasi tutta la radiazione solare. Ad Atene, dove l'effetto isola di calore è stato studiato, si sono visti aumenti di temperatura anche di 10 gradi nel corso dell'estate. Tuttavia anche qui ci sono delle possibilità di mitigazione. Ne parliamo con il nostro esperto di città resilienti, Piero Pelizzaro, responsabile progetti internazionali del Kyoto Club. Buonasera Pelizzaro. Buonasera a voi. Allora, se ho capito bene, per parlarci di come si combatte l'isola di calore ci porta come prima cosa in Spagna. Sì, c'è un'esperienza molto bella in Spagna, nei Paesi Baschi, a Vitoria Gasteiz, un'esperienza che ha un lungo, nasce tempo fa, dove ci sono due cinture verdi, vengono chiamate Green Belt, una cintura verde che ha una cintura esterna alla città e una cintura interna che stanno costruendo oggi, appunto in vista dell'impatto del cambiamento climatico. Che effetti hanno queste Green Belt? Principalmente ha un effetto di favorire la ventilazione nell'ambito urbano, riduce la temperatura della media della città andando ad assorbire parte del calore della radiazione solare, aumenta i fattori di drenaggio, quindi anche delle acque, e in ultimo ha anche il vantaggio di aumentare la biodiversità interna della città, un valore che oggi sempre di più entra negli indicatori economici. Eh sì, perché c'è questo aspetto dell'ombreggiamento che è abbastanza ovvio, no? Se invece dell'asfalto essere colpito dal sole, che assorbe molto il calore, sono delle foglie, cambia tutto. Poi le piante traspirano acqua. Inoltre questi spazi verdi si possono anche utilizzare a scopo agricolo, no? E lì si mette insieme un altro piccione sempre con la stessa fava, no? Abbiamo detto controllo del calore, delle acque, e lì anche chilometro zero si può fare volendo. Volendo anche sì, non è esattamente il caso di Vitoria Gasteiz, però ci sono altre esperienze dove orti urbani o agricoltura urbana vanno a creare anche queste delle cinture verdi che favoriscono quindi anche la produzione di cibo locale. Ma come dicevi anche tu giustamente, un altro ruolo fondamentale di queste cinture verdi è l'ombreggiamento, che può essere definito un'esperienza win-win nella lotta, certo, al cambiamento climatico, perché oltre a favorire appunto e a gestire meglio le ondate di calore, può anche contribuire a ridurre i consumi interni energetici degli edifici. L'ombreggiamento aumenta il raffrescamento interno degli edifici, certo, e questo diminuisce il fabbisogno di condizionamento, per esempio. Esattamente, no? Esattamente come dici. Quindi in questo modo riusciamo a gestire sia gli impatti e al tempo stesso a ridurre anche le cause del cambiamento climatico. Oltre a questa esperienza di Vitoria Gasteiz, potrei anche citarvi l'esperienza di New York, dell'High Line, la vecchia metropolitana, che anziché essere abbattuta è stata riqualificata, sì, creando un grande parco verde che sovrasta la città. È una sopraelevata lunga un miglio, qualcosa del genere, no? Che è diventata una specie di camminatoio verde molto bello. Tra l'altro proprio a New York si stanno facendo altri tentativi per ridurre l'effetto isola di calore. Vorrebbero verniciare un po' tutto di bianco, no? Sì, è stata lanciata questa campagna durante l'amministrazione Bloomberg Cooling New York, che vuole andare a promuovere la tinteggiatura dei tetti con vernice bianca. Come sappiamo, la vernice bianca o comunque le vernici chiare hanno il vantaggio di saper riflettere l'azione solare. In questo modo si va a ridurre l'aumento della temperatura dei materiali, ma soprattutto l'aumento della temperatura interna delle città. Ricordiamo che a puro scopo di risparmio energetico queste vernici vengono utilizzate per esempio nel settore terziario, pensiamo ai supermercati, no? Che sono molto estesi orizzontalmente, lì il sole d'estate fa aumentare tantissimo i consumi di energia, allora ci sono anche delle vernici speciali che sono particolarmente brave a riflettere la luce solare e anche a dissipare il calore accumulato all'interno degli edifici. Ci sono delle robe anche mica poco sofisticate, no? Esattamente, ci vuole poco in questo, nel senso noi abbiamo oggi molte anche know-how in Italia riguardo a queste vernici che dovrebbero essere valorizzate sia nel terziario sia negli edifici privati. Questa è sicuramente una delle misure a più basso costo che possiamo attuare anche in tempi molto brevi. Ecco Pelizzaro, c'è qualche città italiana che sta lavorando su questo tema, la lotta al fenomeno dell'isola di calore? Beh, abbiamo due esperienze principalmente, il Comune di Bologna con il progetto Blue Up, che avrà come misura anche la riduzione dell'impatto in atti di calore, il progetto Urban in Thailand, finanziato dalla Commissione Europea, che vede coinvolti il Comune di Padova e lo IUVA di Venezia, anche qui per identificare misure utili nel contesto italiano. Grazie Piero Pellizzaro. Grazie a voi. È tutto, a domani.